contra me giusto. Per le nove radici d'esto legno vi giuro che già mai non ruppi fede al mio Signor, che fu d'onor sì degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia, che giace ancor del colpo che invidia le diede. Un poco attese, e poi, da ch'el si tace, disse il poeta a me, non perder l'ora, ma parla e chiedi a lui se più ti piace. Ond'io a lui, domanda il tuo ancora di quel che credi ch'a me satisfaccia, ch'i non potrei tanta pietà m'accora. Perciò ricominciò, se l'om ti faccia liberamente ciò che il tuo dir priega, spirito incarcerato, ancor ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi nocchi, e dinne se tu puoi, s'alcuna mai di tai membra si spiega. Allor soffiò il tronco forte, e poi si convertì quel vento in cotal voce. Brievemente sarà risposto a voi. Quando si parte l'anima feroce dal corpo ond'ella stessa s'è disvelta, Minos la manda alla settima foce. Cade in la selva e non l'è parte scelta, ma là dove fortuna la balestra, quivi germoglia come gran dispelta. Surge in vermena e in pianta silvestra, l'arpie pascendo poi delle sue foglie fanno dolore e al dolor fenestra. Come l'altre verrem per nostre spoglie, ma non però ch'alcuna sen rivesta, che non è giusto aver ciò com si toglie. Qui le trascineremo e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi, ciascuno al prun dell'ombra sua molesta. Noi eravamo ancora al tronco attesi, credendo ch'altro ne volesse dir, quando noi fummo d'un romor sorpresi, similemente a colui che venire sente il porco e la caccia alla sua posta, code le bestie e le frasche stormire. Ed ecco due dalla sinistra costa, nudi e graffiati, fuggendo sì forte che della selva rompieno ogni rosta. Quel dinanzi, ora accorri, accorri, morte! E l'altro, cui pareva tardar troppo, gridava, Lano, sì non furo accorte le gambe tue alle giostre dal toppo. E poi, che forse li fallia la lena, di sé ed un cespuglio fece un groppo. Dirietro a loro era la selva piena di nere cagne, bramose e correnti, come veltri, c'uscisser di catena. In quel che si appiattò miserli denti, e quel dilaceraro a brano, poi s'emportar quelle membra dolenti. Presemi allor la mia scorta per mano, e menommi al cespuglio che piangea per le rotture sanguinenti in vano. O Jacopo, dicea, da santo Andrea, che t'è giovato di me fare schermo? Che colpa ho io della tua vita rea? Quando il maestro fu sovresso fermo, disse, chi fosti che per tante punte soffi con sangue doloroso sermo? Ed egli a noi, o anime che giunte siete a veder lo strazio disonesto ch'a le mie fronde sì da me disgiunte, raccoglietele al piè del tristo cesto. I fui della città che nel Batista mutò il primo padrone, ond'ei per questo sempre con l'arte sua la farà trista. E se non fosse che in sul passo d'Arno rimane ancor di lui alcuna vista, quei cittadin che poi la rifondaro sovra il cener che d'Attila rimase, avrebber fatto lavorare indarno. Io fei gibetto a me delle mie case. Fine del 13° canto dell'Inferno.